Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Come promuovere i prodotti di lusso in tempi di crisi? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo è l'interrogativo intorno al quale si confronta in questo momento il settore dei consumi di fascia alta. Ne parleremo tra pochissimo nel primo dei nostri approfondimenti. E c'è anche chi può permettersi il lusso invece di prendere in giro il consumo critico, meglio i suoi aspetti più estremi, come ad esempio il dumpster diving, il tuffo nella spazzatura, questo è il significato letterale, come pratica antispreco. Focus sui trend dedicato infine ai consumi ai confini della realtà, quando vero e falso, opportunamente dosati e mescolati, fanno tendenza. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Al via Milano Moda Donna. Dal 22 al 28 febbraio i più grandi stilisti italiani e stranieri presenteranno le loro collezioni per la stagione autunno-inverno 2012-2013. 72 le sfilate in calendario. Nuovo corso con IKEA per Fiorucci, che annuncia l'apertura di 20 nuovi pocket store nel mondo, arredati dal colosso svedese dell'arredamento. Il primo a Capri. Al suo interno l'ironia di Fiorucci e il rigore del design nordico. Hai un'idea per la prossima collezione? Potrebbe diventare un abito. Lo stilista americano Oscar De La Renta, 79 anni, lancia il progetto The Board, aprendo a tutti la possibilità di collaborare alle sue creazioni. Per 3 mesi, chiunque potrà inviare immagini, video o fotografie che potranno ispirare gli abiti della nuova collezione. Continuano i segnali positivi del biologico in Italia. Tra i dati contenuti nel rapporto Biobank 2012, la crescita dei gruppi d'acquisto solidale, più 44% a quota 900, e della vendita diretta in azienda, più 16% per i 2.500 spacci presenti sul territorio. Segna un più 27% anche l'e-commerce di settore. Gli operatori bio in Italia salgono a quota 9.500, i più numerosi in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. Concerti d'autore in un centro commerciale. Succede al centro Campania di Marcianise, provincia di Caserta, con la rassegna Non luoghi musicali. 13 appuntamenti a ingresso gratuito, fra i quali spiccano i nomi di Cristina Donà, Paolo Fresu, Casino Royal. La borsa della spesa. L'ostentazione è morta. Allora che cos'è il lusso? È il piacere che ti dà una cosa o è il fatto di possederla? A cosa serve il lusso se non riesci a godertelo? Il lusso è un diritto. Ne ho avuto abbastanza. Tornare alle origini. È questo che ho fatto. Una vita semplice. È questo che volevo. Non avrei mai pensato di tornare indietro. Allora, vi piace? Niente male. Quanto costa? 11.900 euro. Solo? Vogliamo spendere molto di più. Squared or pear-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Erano vari spot pubblicitari legati ai prodotti di lusso che mai come in questo momento si stanno interrogando sulle corde giuste da toccare in pubblicità. I risultati, lo avete sentito, sono i più disparati. C'è chi dice che il lusso sia un diritto e chi si azzarda a sostenere che il downshifting, il ridimensionamento del proprio stile di vita, è finito. Chi cavalca la filosofia low cost, segnalandone però il suo rifiuto come atteggiamento presente dunque in una certa fascia di consumatori. Insomma, come sta cambiando la comunicazione per i beni di lusso, per i consumi di fascia alta? Come conciliarla con la sobrietà, la cosiddetta new frugality che i tempi di crisi hanno imposto? Ne abbiamo parlato con un esperto del settore, per 15 anni responsabile della comunicazione della Ferrari, Antonio Ghini, autore del libro Dal detersivo alla Ferrari.